Mare, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Maxi rissa con accoltellamento tra una ventina di migranti ieri sera a Trieste in piazza Carlo Alberto, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri di Vermet. Protagoniste bande di giovani non accompagnati di origine pakistana e afghana, alcuni dei quali ospiti di un vicino centro di accoglienza. L'industria rallenta, la produzione fatica e anche le previsioni per i prossimi mesi non fanno sorridere. I dati dell'ultima indagine congiunturale regionale di Confindustria relativa al terzo trimestre di quest'anno domina il segno meno. L'IRES, Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, festeggia i 40 anni di attività e li ha voluti ricordare consegnando gli annuali premi di laurea dedicati alla figura di Domenico Tranquilli, ricercatore e fondatore dell'istituto che lo ha diretto fino al 2003. Per tutelare meglio il cittadino, Confartigianato e le associazioni in difesa dei consumatori inizieranno una collaborazione per trovare insieme soluzioni pratiche come un bollino di qualità o linee guida. Un progetto di educazione affettiva dedicato ai ragazzi nelle scuole proposto dalla società scientifica AIED che da 70 anni si impegna a favorire la natalità. La Triestina termina agli ottavi di finale la propria corsa in Coppa Italia dopo la sconfitta di ieri sera a Vicenza per 2-0. Le 12:31 minuti e 45 secondi, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e Daniele Lettige che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 29 novembre. In apertura dunque ancora la maxi rissa con accoltellamento tra una ventina di migranti che è avvenuta ieri sera a Trieste in piazza Carlo Alberto, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri di Vermet, protagoniste bande di giovani non accompagnati di origine pakistana e afghana, alcuni dei quali ospiti di un vicino centro di accoglienza, due feriti, ma per le ultime novità sentiamo Antonio Di Bartolomeo che ci ha raggiunti in studio. Sì, due feriti lievi già dimessi dall'ospedale. Il bilancio della rissa che ieri attorno alle 20:30 ha coinvolto una ventina di giovani stranieri, i minorenni non accompagnati. Le violenze si sono scatenate all'esterno di una struttura di Piazza Carlo Alberto nel quartiere di San Vito. Alcuni dei protagonisti della rissa sono ospiti della comunità dove vive una dozzina di ragazzi. Sono in corso indagini da parte della questura per ricostruire l'accaduto anche attraverso le telecamere di videosorveglianza. Abbiamo parlato con i dirigenti della comunità, della cooperativa che gestisce la struttura, che è la comunità Aedis, e ci hanno riferito che da parte loro sostanzialmente gli ospiti della struttura sono stati in qualche modo aggrediti rispetto a una situazione dove sostanzialmente, almeno inizialmente, non c'entravano nulla. Secondo la ricostruzione loro, tre pakistani stavano fuggendo da altrettanti aggressori e conoscevano questa struttura, sono andati a citofonare alla porta. A quel punto questa porta è stata aperta da chi si trovava all'interno e gli aggressori sono riusciti almeno in parte entrare nell'atrio della struttura, e questo avrebbe scatenato quindi la rissa, da cui appunto si sono stati appunto questi due feriti. Sono stati utilizzati, è stato trovato un taglierino su uno dei feriti, anche una pistola giocattolo che però non aveva il tappo rosso davanti. E gli aggressori, si è scoperto chi erano, da dove provenivano, non facevano quindi parte degli altri minori non accompagnati? No, quindi parliamo di almeno secondo quello che riferisce la struttura. Da questo punto di vista invece chi indaga preferisce mantenere ancora il riserbo per provare a ricostruire quanto accaduto. Erano persone esterne alla struttura che si sono avvicinate a questo immobile di Piazza Carlo Alberto tentando di entrare i primi per ripararsi, i secondi invece per aggredire, e di lì appunto si è scatenata questa rissa anche con l'utilizzo di coltelli e appunto con un'arma impropria, una pistola non vera, una pistola giocattolo ad aria compressa, e che non aveva però il tappo rosso davanti come dovrebbe essere in questo caso. C'è stato anche una terza persona seguita dai sanitari, un ragazzo che sembra abbia avuto una crisi epilettica, forse anche a causa della tensione che si è scatenata. I due feriti sono classe 2006, quindi sono sostanzialmente due 17enni. Grazie Antonio Di Bartolomeo per queste precisazioni, noi continuiamo con la cronaca. Un infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina negli spazi di un'attività produttiva di Roveredo in Piano. Per cause in corso di accertamento, un operaio è caduto da un'altezza di circa 3 metri. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, quello dell'automedica e l'elisoccorso assieme alle forze dell'ordine. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico ed è lì trasportato in codice giallo all'ospedale di Udine. E a Udine una persona è rimasta coinvolta in un incidente stradale che si è verificato in piazzale Rita Levi Montalcini, non subendo però gravi conseguenze. Confindustria Friuli Venezia Giulia ha presentato il report del terzo trimestre di quest'anno. L'industria rallenta, la produzione fatica e anche le previsioni per i prossimi mesi non fanno sorridere. L'industria rallenta, la produzione fatica e anche le previsioni per i prossimi mesi non fanno sorridere. A guardare i dati dell'ultima indagine congiunturale regionale di Confindustria Friuli Venezia Giulia, relativa al terzo trimestre di quest'anno, quello che domina è il segno meno. Meno 6,8% nella produzione industriale rispetto ai tre mesi precedenti, meno 10% per le vendite e meno 10% anche per le ordinazioni. Tutte tendenze in calo anche se si fa il confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente, meno 7% della produzione, meno 9,3% per le vendite e meno 13,3% per i nuovi ordini. Se si guarda avanti il pessimismo è palpabile, la metà degli imprenditori intervistati prevede ulteriori cali produttivi, mentre un terzo spera che la situazione si stabilizzi. Sul fronte della domanda interna va ancora peggio, il 61% pensa che scenderà ancora e solo il 6% vede miglioramenti, quella estera scenderà per il 65%. L'unica voce che sembra tenere riguarda l'occupazione, che resta stabile e anzi registra un leggero aumento. Le cause, spiega il presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia Zamò, sono da ricercare nella crisi della Germania, il cui tessuto produttivo è molto legato al sistema industriale regionale. Per il 2024, continua Zamò, l'attenzione è allora rivolta a eventuali segnali di ripresa dell'economia tedesca, ma si guarda anche le politiche monetarie della BCE, che forse saranno meno restrittive in attesa di una maggiore stabilità. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Più di 70 aziende risponderanno alle domande dei visitatori, tra cui 7.000 studenti di oltre 50 scuole superiori. L'occasione è il punto d'incontro Salone dell'Orientamento, Formazione e Lavoro, che si tiene negli spazi di Pordenone Fiere. Due giornate dedicate all'informazione, confronto e dialogo aperto a tutti per approfondire le opportunità di formazione e lavoro. Sono venuto qua per fare vedere un po' di mestieri, un po' in caso mai, essendo che faccio un professionale, vedere se fare università o meno, però in generale sto cercando lavoro. Sono più di 7.000 le ragazze e i ragazzi attesi tra oggi e domani in Fiera Pordenone per la 15ª edizione di Punto di Incontro, salone dedicato all'orientamento, alla formazione e al lavoro. Un'occasione di informazione e confronto con 120 realtà imprenditoriali, formative, istituzionali per orientarsi nelle scelte formative, post diploma e nelle prime opportunità lavorative. C'erano molte scelte. Anzi, l'imbarazzo della scelta abbiamo avuto. E ho visto qualcosa dell'esercito, qualcosa di privato, marina. Elisa Carino, Agenzia per il Lavoro. Le aziende hanno difficoltà a trovare lavoratori con professionalità elevate. E sicuramente le aziende metalmeccaniche sono quelle che sono in questo momento molto in sofferenza, ma non solo. Anche profili impiegatizi, profili ingegneristici. Cerchiamo giovani, ecco, perché non se ne trovano. Non ci sono ragazzi che o non vogliono fare i turni o comunque vogliono una carriera più facile. In calendario anche 140 tra workshop e incontri e prove di guida sicura. Enrica Bolognesi è coordinatrice del corso in banca e finanza dell'Università di Udine. Abbiamo appena finito il workshop, rispetto agli altri anni un maggior numero di ragazze e questo mi fa molto piacere perché la finanza tante volte viene associata ai ragazzi, cosa che non deve essere perché in finanza c'è bisogno anche di ragazze. Io sono venuta a vedere l'università, soprattutto per quanto riguarda l'ambito dietistico, e spero di trovare qualcosa che dica wow, che sia la strada giusta per me. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oltre 1 milione di euro è la somma che l'amministrazione di Clout è riuscita ad aggiudicarsi dalla regione per mettere in sicurezza la borgata Sorafin e proteggerla dai danni del forte maltempo. I fondi sono stati stanziati dal governo del Friuli Venezia Giulia per coprire le spese di interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. La pagina politica a Trieste si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dei prossimi congressi provinciali di Forza Italia. Forza Italia si riorganizza e lo fa attraverso la stagione congressuale, un passaggio storico dopo la morte di Silvio Berlusconi, ha spiegato Andrea Cabibbo, capogruppo in consiglio regionale, precisando che c'è voglia di adesione tra i cittadini che negli ultimi anni si sono allontanati dalla vita politica. L'obiettivo principale è quello di coinvolgere nel nuovo percorso gli iscritti. In Friuli Venezia Giulia sono poco meno di 1000, è stato detto. La classe dirigente è fortemente motivata e in regione Forza Italia è presente in 3 comuni capoluogo su 4. Andrea Cabibbo, capogruppo Forza Italia, Partito Popolare Europeo. Forza Italia è chiamata a camminare con le proprie gambe, con le gambe dei propri iscritti, dei propri simpatizzanti e dei propri elettori. Per questo si sono organizzati questi congressi, prima quelli provinciali, poi a febbraio ci sarà il congresso nazionale, per portare avanti le nostre idee, le idee del nostro presidente Silvio Berlusconi e continuare con i valori che lui ci ha insegnato. Siamo un partito liberale europeo, è stato precisato in conferenza, e stiamo passando dalla fase tecnopolitica a quella del rilancio verso un soggetto politico che ha intenzione di riconquistare l'elettorato, e le sfide sono le elezioni nel 2024 in oltre 100 comuni della regione e in primavera le elezioni europee. Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. I primi congressi provinciali di Forza Italia si terranno venerdì 1 dicembre a Gorizia e a Trieste, mentre sabato sarà la volta di Pasian di Prato, quindi per la provincia di Udine, e domenica quella di Pordenone. E ora uno sguardo alle condizioni meteo. Il cielo è sereno o poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate poco fa: a Trieste 9,5 gradi, a Pordenone e Gorizia 8,5 gradi, a Udine 8 gradi, a Tolmezzo 3 gradi, a Forni di Sopra 1,5 gradi, a Piancavallo e Tarvisio 0 gradi, a Sappada meno 5 gradi, sul Monte Zoncolan meno 4 gradi, su Lussari meno 6 gradi. Passando la costa, a Grado 10 gradi, a Lignano 8,5 gradi. Ed ecco le previsioni a cura dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Cielo oggi in prevalenza sereno con aumento della nuvolosità verso sera. Al mattino sulla costa ha soffiato borino che calerà nel pomeriggio. Per domani cielo coperto, sulla fascia occidentale precipitazioni deboli e moderate, su quella orientale da moderate ad abbondanti, forse anche intense a Trieste e sul Carso. Quota neve inizialmente sui 400-600 metri, poi in progressivo innalzamento, prima sulle prealpi e poi anche sulle Alpi, fino a oltre 2000 metri nella notte che andrà su venerdì. Nelle ore centrali possibili fasi senza precipitazioni, in quota soffierà vento sostenuto dal sud-ovest. Per tutelare meglio il cittadino confartigianato, le associazioni in difesa dei consumatori inizieranno una collaborazione per trovare insieme soluzioni pratiche come un bollino di qualità o linee guida. Ma come fare per reperire un buon artigiano per lavori casalinghi? Ne abbiamo parlato questa mattina nella rubrica Buongiorno Regione. Per una strana legge di natura, la caldaia si rompe in una fredda domenica d'inverno e il condizionatore a Ferragosto. Cerchiamo allora il contatto di qualcuno bravo che possa intervenire tempestivamente. La rete è piena di siti creati ad hoc per situazioni d'emergenza o anche per aiutarci a pianificare lavori programmabili. Difficile però trovare personale davvero competente. Come fare? Enrico Eva, segretario generale di Confartigianato del Friuli Venezia Giulia. Ci sono più siti della Camera di Commercio, a seconda delle diverse Camere di Commercio, e bisogna ricercare sul registro imprese. Sul registro imprese, con servizi online della Camera di Commercio, uno ha l'identificazione dell'impresa, ha addirittura il codice Ateco, quindi ha le specialità dell'impresa, e se vuole con 5 euro si scarica la visura camerale. L'avvocata Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi. Quello che noi consigliamo in questi casi è ovviamente andare a leggere le recensioni fatte da altri consumatori sul lavoro di quella determinata realtà. E giustamente quello che è necessario nel momento in cui si ha un contatto con questi soggetti, chiedere immediatamente il costo del servizio, e se c'è un'opacità su questo dato non procedere assolutamente con un incarico all'esecuzione dei lavori da parte di questi soggetti. Capita poi che il titolare di una ditta certificata e seria appalti il lavoro a persone non qualificate. Che il soggetto, che la famiglia vada a verificare il negozio, cioè che vada a vedere coi propri occhi chi mi farà il lavoro. Certo, c'è il subappalto che è previsto dal codice civile, pertanto il negozio può fidare a un artigiano terzo. A questo punto io sono più disarmato, diventa più complesso, però è legittimo chiedere: se subappalti, chi mi mandi a casa? Entriamo già in una fase complessa comunque per un lavoro domestico. Assolutamente comprendo che il cittadino è scoperto da queste tutele. E proprio per tutelare meglio il cittadino, Confartigianato e le associazioni in difesa dei consumatori inizieranno una collaborazione per trovare insieme soluzioni pratiche come un bollino di qualità o linee guida. È una richiesta che abbiamo già rivolto alle associazioni di categorie sulle quali ci piacerebbe molto lavorare, perché sarebbe veramente un servizio offerto al consumatore. Francesca, Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Il comitato Novovia ha tenuto questa mattina una conferenza stampa in cui, rispondendo alla presentazione da parte del Comune la scorsa settimana del rendering del progetto della cabinovia fra Trieste e il Carso, ha illustrato le criticità individuate dagli esperti che fanno parte proprio del comitato. Una delle contestazioni principali, ha spiegato il coordinatore William Starz, è che quello presentato dal Comune non è ancora il progetto definitivo e che alla presentazione non erano presenti i tecnici responsabili della progettazione esecutiva. Sempre durante la conferenza stampa di stamattina, il comitato ha poi presentato le prossime iniziative di mobilitazione per la raccolta di firme necessarie alla presentazione di una petizione al Parlamento europeo contro la realizzazione del progetto di cabinovia. Urologo da 40 anni, impegnato a preservare la fertilità degli uomini, frequentando da medico i consultori, Carlo Trombetta parla dell'importanza di divulgare i temi dell'affettività e dell'educazione sessuale a scuola per il rispetto nei confronti della donna, ma anche per preservare la natalità. Con una mail agli specializzandi e agli studenti di medicina stimola una riflessione sulla necessità di ragionare attorno al tema della demografia e dell'educazione all'affettività e alla sessualità, tema mai più attuale di oggi. Carlo Trombetta, professore dell'Università di Trieste e direttore dell'Urologia di Asugi, che da 41 anni fa parte dell'AIED, Associazione Italiana Educazione Demografica, istituzione che di fatto ha fatto nascere i consultori in Italia e che ha conosciuto a Genova a 26 anni quando era ancora specializzando, e da 41 frequenta i consultori per dare sostegno agli uomini, sostegno alla fertilità. Quando arrivò in Friuli Venezia Giulia 30 anni fa, il territorio già ospitava due sedi di consultori AIED a Pordenone e Udine, che collaboravano con l'Università di Trieste. Da allora Trombetta ha mandato studenti e strutturati a formarsi lì e lui stesso ha fatto parte di questa formazione. Lei parla di impegno civile, perché? Perché ritengo sia importante che il maschio sia educato sul rispetto della propria fertilità, che è il miglior modo per voler bene a una donna e il miglior modo per far sì che la sessualità sia completa, che sia non soltanto prestazione, ma anche affettività e anche possibilità di avere dei figli, cosa che sappiamo oggi nella nostra società che valore importante abbia. Il problema della fertilità è l'ultimo dei problemi dei ragazzi. Lei lo vede nelle visite. Difatti siamo colpiti dal fatto che magari utilizzano farmaci che vengono adottati per la crescita dei capelli, sanno che questi possono interferire con la loro fertilità e non se ne fanno problema. Oppure utilizzano anabolizzanti per le palestre, per queste prestazioni esagerate e poi non comprendono che questo comporta un danno testicolare spesso irreversibile. Trieste, Navi Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia. In una cerimonia a Udine sono stati consegnati i premi di laurea IRES per le tesi realizzate sui temi dell'economia, intitolati alla figura di Domenico Tranquilli, fondatore dell'istituto scomparso 4 anni fa. Una premiazione per 2 tesi di laurea e il festeggiamento di un compleanno. Nata il 29 novembre del 1983, l'IRES, l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, festeggia i suoi 40 anni di attività e li ha voluti ricordare consegnando gli annuali premi di laurea dedicati alla figura di Domenico Tranquilli, ricercatore e fondatore dell'istituto, che lo ha diretto fino al 2003. Maurizio Canciani, presidente dell'IRES. Con Tranquilli ci ho lavorato almeno 15 anni. E quando l'IRES degli anni 80 era veramente molto artigianale, considerate che faceva un'attività grosso modo dei vecchi 100 milioni, quindi 50 mila euro sostanzialmente. Oggi abbiamo fatturato di circa 3 milioni e mezzo con 50 persone stabili, quindi insomma decisamente uno sviluppo direi anche impensabile. 2 le tesi di laurea premiate, 2 lavori fortemente legati al territorio. Il premio, giunto alla 3ª edizione, assegna ogni anno un riconoscimento ai lavori di approfondimento e ricerca sui temi dell'economia, dello sviluppo e della montagna e del mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione a quelle progettualità in grado di fare da volano per lo sviluppo locale, da sempre promosse nel lavoro di Tranquilli. Vanessa Delben è stata premiata per la metodologia formativa proposta nel suo lavoro sul castello di Maniago, in grado di coinvolgere le giovani generazioni e un percorso di riscoperta e valorizzazione del territorio. Michele Metus, con la sua tesi Prospettive di vitinicoltura in montagna in Friuli Venezia Giulia affronta l'impatto positivo in termini di sviluppo locale che potrebbe apportare un'innovazione culturale rispettosa del territorio e della sostenibilità. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Sarà l'ensemble Alban Berg, supergruppo internazionale con base a Vienna, ad aprire i cartelloni di Cromatismi, la rassegna musicale organizzata dall'associazione Chamber Music e presentata questa mattina a Trieste. Si tratta di un ensemble nato dalla fusione di un quartetto d'archi con tre solisti aggiuntivi, impegnato il 17 gennaio in un programma con musiche di Mahler, Schnittke e Schönberg, punto di partenza di un cartellone che occuperà l'intero anno solare. Tra i nomi di spicco si segnalano i solisti di Zagabria e i virtuosi italiani, il violoncellista e direttore d'orchestra Luigi Piovano, il trio Debussy, oltre a una fitta serie di concerti per piano. Un cartellone, ha spiegato Fedra Florit, a cui è affidata la direzione artistica, scandito da percorsi tematici che ruotano attorno alla grande tradizione viennese, ma con uno sguardo aperto al futuro. Nella rassegna Cromatismi si iscrive anche la 22esima edizione del premio Trio di Trieste, riservato alle giovani formazioni di musica da camera. A guidare la giuria quest'anno sarà il violista Bruno Giuranna. Calcio, termina le ottavi di finale il cammino in Coppa Italia per la Triestina, sconfitta ieri sera con un secco 2-0 dal Vicenza allo stadio Menti. Si interrompe così, dopo 12 risultati utili consecutivi, la striscia positiva degli alabardati, che ora si concentrano sugli impegni di campionato, a cominciare dalla trasferta di sabato in casa della Virtus Verona. La Triestina termina agli ottavi di finale la propria corsa in Coppa Italia dopo la sconfitta di ieri sera al Menti di Vicenza. 2-0 il risultato finale di una partita in cui gli alabardati hanno dimostrato un buon gioco ma non sufficientemente concreto per passare il turno. In partenza diverse occasioni preparate da D'Urso per Redan, ma al 24esimo passano in vantaggio i vicentini. Pellegrini mette un pallone in mezzo all'area e Proia corregge in gol. E pochi minuti più tardi cerca già di raddoppiare. Gli alabardati continuano a minacciare. D'Urso e Redan tentano di concretizzare una punizione, ma Massolo li ferma. All'inizio della ripresa i vicentini cercano di blindare il vantaggio con un nuovo raddoppio. Al 56esimo Pellegrini ci va vicino, ma Agostino lo ferma. Il secondo gol dei padroni di casa arriva 4 minuti più tardi. Su azione di calcio d'angolo Ferrari trova il colpo di testa giusto in mischia. La Triestina cerca in più occasioni di riaprire il match, ma la porta dei padroni di casa rimane inviolata. Ai quarti di finale di Coppa Italia approda il Vicenza e la squadra di Tesser può concentrarsi sul campionato e la trasferta di sabato a Verona con fischio d'inizio alle 18:30. Nada Choc, TGR Friuli Venezia Giulia. Per la pallanuoto, nella decima giornata del campionato di Serie A1 maschile, Trieste farà visita oggi alla Rarinantes Savona per risalire la classifica. Nella piscina Carlo Zanelli, inizio alle ore 20 con diretta TV su Rai Sport. In cinema, il Festival del Cinema Inclusivo, primo festival cinematografico in Italia, accessibile e fruibile anche alle persone con disabilità sensoriali. Un festival itinerante che farà tappa anche a Udine tra il 4 e il 6 dicembre e in gennaio a Trieste. Un progetto nazionale itinerante ideato da Federico Sport, originario di Udine, che da 10 anni vive a Londra. Sentiamolo. L'idea è quella appunto di permettere a tutti di andare al cinema, anche alle persone che normalmente non hanno la possibilità di andarci, appunto perché non ci sono gli strumenti che permettono loro di seguire le proiezioni. Oggi la tecnologia ci aiuta, i sottotitoli sono più facili da realizzare, soprattutto l'audiodescrizione, che una volta era impensabile fruire al cinema, può essere utilizzata dalle persone cieche e ipovedenti, che la scaricano sul proprio smartphone attraverso un'app e poi la sincronizzano automaticamente in sala con l'audio che arriva dallo schermo. Quindi anche una persona che non vede può seguire una proiezione in modalità inclusiva, quindi insieme a tutti gli altri, ascoltando una voce che nelle pause di dialogo gli spiega, gli racconta quello che sta succedendo. Le proiezioni accessibili sono molto diffuse all'estero, in Italia siamo indietro, anche se c'è una legge che prevede che vengano prodotte per accedere al finanziamento pubblico per tutti i produttori di contenuti audiovisivi, però non c'è niente che impone poi di distribuire queste versioni. Qual è il programma? Il programma prevede 20 titoli che arrivano tutti da festival internazionali dove hanno vinto dei premi, quasi tutti accompagnati dalle registe o dai registi, con due anche premiere nazionali che sono La guerra del Tiburtino e anche Diabolique, chi sei, che è il film molto atteso dei fratelli Menetti, che saranno a Udine a presentarlo il giorno 5. Tutte tutte le proiezioni, tranne quella dei Manetti, perché è un film in prima assoluta, sono gratuite, basta registrarsi sul sito del Cinema Visionario e quindi vi aspettiamo al cinema dal 4 al 6 dicembre. Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Nuovo appuntamento con le conferenze organizzate nell'ambito della mostra fotografica di Francesco Penco, Trieste, il tempo della storia. A Palazzo Gopcevic di Trieste alle 17 si approfondirà il tema delle minoranze etnico-religiose durante il fascismo, con Tullia Catalan e Stefan Cioc. Conferenza pubblica dal titolo Dalla Franzonia ad Alessia Pifferi, le mamme assassine. Ospite della serata il noto giornalista Gianluigi Nuzzi di Milano. Ripercorrerà alcune storie che hanno tenuto il paese con il fiato sospeso, sperando fino all'ultimo che la giustizia divenisse a conclusioni diverse da quelle drammatiche che purtroppo conosciamo, presso il Kulturnidom di Gorizia alle 20. Una notizia di servizio, il centro unico vaccinale di Via dei Ralli numero 3 a Trieste sarà aperto dalle 14 alle 17 per le vaccinazioni anti-Covid e anti-influenzale. I posti disponibili sono 180 e le vaccinazioni saranno effettuate previa prenotazione tramite CUP, web app e farmacie. E nell'ambito dello screening regionale, la SUGI offre a titolo gratuito ai cittadini nati tra il 1969 e il 1989 il test salivare per la ricerca di anticorpi anti-HCV presso il centro vaccinale di Monfalcone, ospedale San Polo, dalle 15 alle 17. L'esito del test sarà letto dopo 20 minuti e se risulta positivo sarà eseguito un prelievo ematico contestuale. La prenotazione al test può essere effettuata, come di consueto, presso gli sportelli CUP tramite call center e presso le farmacie. Ed è tutto per questo secondo giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stato redatto e condotto da Daniele Lettige e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Cumin e di Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.